Io sono stato chiamato per progettare una piazza in quanto ho partecipato negli anni scorsi ad alcune edizioni del Satellite e quindi quest'anno hanno deciso di appunto affidare ad alcuni designer che dopo il Satellite hanno continuato a lavorare e appunto gli hanno affidato la progettazione di alcuni allestimenti, di alcune piazze. E questa è la tua? E questa è la mia. Visto che siamo in radio dobbiamo avere la capacità di spiegarla a parole e di far vedere quello che gli ascoltatori non vedono. Ma allora, il Cosmit mi ha chiesto di dare una visione progettuale di quello che sarà, secondo me, il mondo del progetto tra 50 anni. Visto che non ho la sfera di cristallo, io ho cercato di comunque proporre il mio modo di progettare, un modo che cerca di guardare in modo alternativo sia il modo di lavorare che anche il modo di utilizzare i materiali. E per il Cosmit ho progettato un allestimento realizzato interamente in trucciolato. Quindi ho realizzato prima una parte di allestimento utilizzando dei pannelli veri e propri come se fossimo all'interno di un deposito e sopra ho posizionato tutta una serie di oggetti realizzati tornendo il trucciolare e credo che sia il primo esperimento di tornitura del trucciolare perché questo trucciolare è un materiale che generalmente viene nascosto, occultato perché è povero ed è forse anche brutto da vedere per alcuni, mentre tramite la nobilitazione della tornitura sono riuscito a dargli un'alternativa possibile di utilizzo. Quanto conta e quanto è cresciuta, diciamo, l'importanza della sostenibilità, dell'uso di determinati materiali nella produzione rispetto dell'ambiente? Beh, io credo che comunque l'aspetto ecologico del progetto oramai non debba essere una caratteristica per cui un utente possa andare a scegliere un oggetto, ma deve essere proprio alla base della progettazione. Quindi secondo me non dovrebbe oramai neanche essere elencata tra le varie caratteristiche del progetto, ci deve essere alla base, punto e basta, poi da lì si parte a progettare. E secondo te in generale viene rispettata quindi? Ma credo forse non sempre, ecco, però secondo me oramai nel mondo in cui viviamo credo sia importante. Ad esempio in questo progetto dove c'è il trucciolare, io ho pensato di utilizzare poi il trucciolare proprio perché viene, noi lo possiamo considerare come una sorta di materiale, pur essendo fatto in particelle di legno, un materiale realizzato dall'uomo, proprio perché ci sono delle piantagioni di pioppocultura in cui vengono appunto piantate queste piante di pioppo per poi essere tagliate e poi ripiantate, quindi non si va assolutamente ad intaccare quella che è la foresta naturale. Ecco perché c'è un po' uno spot che dice meno CO2 più ossigeno, proprio perché non si va a rovinare quello che è il mondo naturale.